appesi addosso, come il fumo sui vestiti, giorni in cui rimani sveglio coi tuoi pezzi ricuciti, giorni senza dire niente e una parola è già rumore, giorni che scorrono dentro come vino senza sapore. Passa la vita graffiando sui muri, pretende tutto senza sconti o favori. Pioggia e sole ti lasciano dentro, ogni giorno sbagliato, ogni passo tradito, ma sono tutti giorni miei, sono tutti giorni miei. Me li tengo addosso ormai, per ogni istante che è già finito. Tutti giorni miei, sono tutti giorni miei. Non tolgo neanche una spina, la via rosa dentro la sua brina. Portare dove il buio è una preghiera, giorni pesi come sassi, vanno a fondo per dimenticare. Poi c'è un giorno da ricordare, ogni volta che la sfiori ti regala la forza di ricominciare. E ti accorgi che domani ancora tanto da inventare. Tutti i giorni miei, sono tutti i giorni miei. Me li tengo addosso ormai, per ogni istante che è già finito. Tutti i giorni miei, sono tutti i giorni miei. Non tolgo neanche una spina, la mia rosa dentro la sua vina.